L'altro pianeta di Laura Bettini. Buon pomeriggio e ben ritrovati a tutti. Per questa puntata dell'Altro Pianeta siamo andati a Pavia per gli Stati Generali della Mobilità Nuova, promossi dal Comune di Pavia per la formazione tecnica di architetti e ingegneri, ma anche per la promozione tra i cittadini della mobilità nuova. Con questo in realtà si intende una mobilità antica, quella dei pedoni, delle biciclette e dei mezzi pubblici. Qualcuno ricorderà l'appuntamento dello scorso aprile degli Stati Generali della Mobilità Nuova di Bologna. Ebbene, quella di Pavia è la prosecuzione ideale per le città medio-piccole che poi costituiscono il grosso dell'Italia. Per chi ne avesse la possibilità e il desiderio, tra l'altro gli Stati Generali proseguono anche nel pomeriggio di oggi al Collegio Cairoli di Pavia con tavoli di lavoro paralleli su ciclabilità urbana, moderazione del traffico, mobilità urbana, comunicazione della nuova mobilità. Noi intanto vi prepariamo, diciamo, inquadrando la situazione con Giuseppe Piras, architetto e organizzatore degli Stati Generali della Mobilità Nuova. Un quadro abbastanza importante per capire come si muovono le nostre città. In Italia abbiamo circa 63-65 auto ogni 100 abitanti, che vuol dire, appunto, considerando anche i bambini e gli anziani, che ce n'è praticamente una o forse più di una a testa. Questo è un dato che chiaramente è molto importante, anche paragonato a quelli che sono i dati degli altri paesi europei. In Inghilterra, faccio un esempio forse un po' eclatante, ci sono 38 auto ogni 100 abitanti, quindi quasi la metà. Vuol dire la metà di tempi in coda, vuol dire la metà di spazio occupato dal parcheggio, vuol dire anche, insomma, il doppio dello spazio disponibile per le persone, anche perché un dato importante è che le auto sono usate quasi solo per il 5% del tempo. Il 95% della giornata stanno ferme, di notte chiaramente perché non vengono usate, ma anche di giorno perché una volta che io ho raggiunto la meta del mio spostamento poi non la utilizzo, la utilizzo 8 ore se sono in ufficio dopo che appunto ho lavorato per tornare a casa. Un dato che forse mi è sfuggito, ma che forse potrebbe essere utile anche questo, è quanta strada fanno queste auto, si sa all'incirca? Sì, questo è un altro dato molto interessante. Il 45% degli spostamenti in città sono sotto i 20 km, quindi sostanzialmente, e di cui in realtà un buon 30% sotto i 5. Vuol dire che la maggior parte delle persone si sposta in auto per fare una distanza che ci vuole una decina di minuti, una ventina di minuti in bicicletta e al massimo un'ora a piedi. Molti spostamenti sono sotto i 2 chilometri, che è una distanza per cui veramente anche a piedi si può benissimo percorrere. Quindi la sostanza è cerchiamo di invertire le cose, no? Spostare molte più persone sui mezzi pubblici, sull'uso delle loro stesse gambe o delle biciclette, in modo da svuotare anche le strade e avere una serie di benefici che vanno da benefici ovviamente del tempo che non perdiamo per le strade, alla salute, all'inquinamento. Quindi questo è l'obiettivo finale, no? Sì, l'obiettivo è in qualche modo avere il mezzo giusto per lo spostamento giusto, nel senso che, appunto, se io devo spostarmi di poche centinaia di metri è giusto che lo faccia a piedi e magari non in bicicletta. Il dato infatti sulla percentuale di spostamenti in Italia è abbastanza drammatico, ci si muove a piedi meno del 10% degli spostamenti, considerando anche, appunto, lo spostamento poi da casa, intorno a casa, insomma, degli spostamenti anche molto brevi. L'auto continua a farla da padrone, il 65% degli spostamenti vengono fatti in auto. Se noi consideriamo che di tutta la mobilità una percentuale che può essere anche del 20-30% è fatta da persone che non possono fare a meno dell'auto, se noi riusciamo il 70-60% dei restanti a spostarli su un mezzo diverso, appunto la bicicletta o i piedi, che sono quello più economico anche per tutti, liberiamo sicuramente spazio per chi è obbligato a usare l'auto, quindi si trova in una situazione molto più comoda, perché vorrebbe dire ridurre di un terzo i tempi di spostamento, ma anche liberare molto più spazio per avere corsie ciclabili, spazio per la ciclabilità, spazio per la pedonalità. Ma come generiamo però questo cambiamento nelle abitudini? Perché poi si tratta anche di abitudini. Allora, chiaramente ci vogliono delle politiche, non siamo arrivati alla situazione in cui siamo adesso per caso, ci siamo arrivati perché è stato pianificata, le nostre città moderne sono state pianificate perché il traffico veicolare fosse il più fluido e il più veloce possibile. Ancora adesso molta dell'ingegneria dei trasporti si basa sulla velocità di percorrenza e di spostamento delle auto, non esistono software per chi si muove a piedi o in bicicletta, già questo è emblematico. E quindi chiaramente io dove investo i soldi avrò maggiore possibilità e maggiori flussi di spostamento. Se le città che hanno investito sulla pedonalità, tramite le pedonalizzazioni, tramite le zone 30, la creazione di spazi di relazione, o che hanno investito sulla ciclabilità, quindi con percorsi e incentivi per chi si muove in bicicletta, hanno avuto performance su questi tipi di spostamento molto più alte. Quindi è una scelta di progettazione della mobilità sostanzialmente. Tra l'altro, se parliamo in particolare di biciclette, lei ricordava prima che anche pianificare delle piste ciclabili non costa poi tanto, si tratta di interventi, no? Diceva 100-120 euro al metro. Bisogna fare in modo che le piste diventino, o le piste o comunque le aree pedonali diventino attrattive. Questo passaggio lo facciamo anche rallentando le auto, giusto? Questo è un altro punto fondamentale, direi. Sì, chiaramente appunto anche lì io devo decidere qual è la forma, la qualificazione delle strade urbane, ovvero quali sono le strade che sono dedicate a una mobilità automobilistica anche più veloce. Io non penso che ci siano delle strade, delle arterie di scorrimento che abbiano necessità di velocità più alte, 70, anche 90 all'ora, perché servono per spostare flussi di auto molto importanti. Altre, come dire, più centrali a 50 all'ora, e poi delle strade addirittura anche a 20 all'ora in prossimità dei centri scolastici, eccetera. E quindi a seconda del tipo di flusso automobilistico e di velocità, anche le altre forme di mobilità in qualche modo vanno adattate. Per cui sulle strade di scorrimento, le arterie principali, è assolutamente necessario avere delle infrastrutture ciclabili separate, sicure, continue, perché poi anche l'attrattività dei percorsi ciclabili fa sì che io le utilizzi o meno, perché c'è la convivenza di due sistemi di spostamento molto diversi. Nel resto della città, nei centri storici, nelle aree residenziali, dove le velocità devono assolutamente essere abbassate, non si può pensare che 50 all'ora sia la velocità di un'arteria di scorrimento come quella della strada che passa di fronte alla scuola o sotto casa. In quelle aree lì, attraverso degli interventi di moderazione del traffico, che vuol dire meno auto, perché rendendo più tortuoso per esempio il percorso, avrò meno attrattività e quindi meno auto che passano di lì per caso, ma sarà soltanto il flusso, il traffico di vicinato, no? Quello che deve arrivare fino alla porta di casa che utilizzerà quelle strade, riducendo il numero di auto, riducendo la velocità, io posso liberare spazio per altre forme di mobilità, perché la velocità delle auto incide anche sullo spazio d'ingombro. Una strada a 30 all'ora, un esempio semplicissimo, può avere una carreggiata di 3 metri, a 50 devono essere già 4 metri e mezzo come standard minimo. Quel metro e mezzo può essere una corsia ciclabile o può essere un allargamento del marciapiede, e quindi dare un'altra possibilità di spostamento in quelle aree. Quindi non è necessario per forza avere grandi infrastrutture per la ciclabilità, a volte basta ridurre la velocità e il numero di auto per ridare spazio a pedoni e ciclisti in modo che possano utilizzare queste aree. È particolarmente interessante il fatto che appunto stiamo parlando di questo in una città più piccola. Di solito avete fatto gli stati generali a Bologna, per esempio, ricordo, poi c'è stata Reggio Emilia, città che è dedicata comunque in gran parte già alle biciclette. Una città più piccola come può essere Pavia può fare questo tipo di interventi e ottenere il risultato che cerca anche solo abbassando quindi un limite di velocità. Sì, la convivenza è un po', come dire, deve essere lo standard, non tanto la separazione, che è uno dei grandi temi sul quale i tecnici poi si dibattono, si affezionano, anche i politici cercano di dividere tutti i flussi in modo da creare meno incidentalità, cosa che non è vera, perché a un certo punto si dovranno incrociare negli attraversamenti, appunto alla fine di una pista ciclabile per forza i ciclisti devono tornare in strada, quelli sono dei punti molto pericolosi. La convivenza, la condivisione dello spazio è un meccanismo che permette anche in realtà una maggiore socialità delle persone, perché non c'è soltanto poi il tema dello spostamento, c'è anche quello della convivenza nelle strade. Lo spazio della strada è uno spazio di relazione, nasce così. così, nasce come spazio del commercio, nasce come spazio del confronto, dell'incontro, del gioco, della socialità. Se noi riusciamo a ridurre la pressione automobilistica sulle strade, appunto le strade del centro, le strade dei quartieri, delle zone residenziali, possiamo recuperare spazio per avere altre funzioni, per cui non è necessario per esempio il commerciante abbia per forza uno spazio col suo dehors tutto recintato in mezzo al parcheggio, ma potrebbe avere dei tavolini che mette e toglie a seconda delle esigenze, che insistono su uno spazio pubblico ma dove si può convivere con chi va in bicicletta, con chi va a piedi, con l'auto che ogni tanto passa, così come degli spazi per il gioco. In moltissimi paesi europei esistono appunto le zone 20, i Wunerf, che sono dei luoghi in cui i bambini possono giocare per strada, perché è l'automobilista che si deve adattare alla situazione delle strade e non viceversa. Se io ridò qualità dello spazio urbano, ridò verde e possibilità di fermarsi, anche tranquillità, silenzio, meno inquinamento, diventeranno sicuramente degli spazi dove le persone poi sono più invogliate a stare, a vivere e anche a prendersi cura poi di quegli spazi. È un meccanismo che, lavorando sul senso anche di appartenenza e dei luoghi, ridà anche qualità allo spazio urbano, ridà sicurezza urbana, che è un altro tema molto importante. Una città parcheggio non è una città dove uno si sente sicuro. L'ultima così curiosità, ovviamente le città che sono all'avanguardia sono sempre quelle del Nord Europa in questo contesto. Ce n'è qualcun'altra magari mediterranea che sta facendo grandi sforzi, che avete visto crescere, che ha cambiato qualcosa, insomma, che non sia un modello lontano come sentiamo tante volte Copenaghen? No, ci sono tante città che stanno come dire, facendo anche grossi cambiamenti in fretta. Sicuramente le città del Nord Europa arrivano da una tradizione molto lunga. Le città americane, per esempio, stanno facendo a passi da gigante in questo senso, perché stanno ripianificando, come hanno costruito delle città a misura di auto, adesso stanno facendo il passaggio contrario, costruendo delle città a misura di persona, anche con grossi investimenti. A livello mediterraneo, molte città della Spagna o anche del Portogallo stanno facendo grandi investimenti. Valencia è una città che ha investito tantissimo sulla ciclabilità, per esempio dando tutta una serie di servizi, ma anche le città dell'ex Europa dell'Est, se vogliamo, Lubiana, che quest'anno è stata capitale europea verde, sta facendo dei grossi investimenti per la pedonalizzazione, per la trasformazione di alcune arterie centrali come zone appunto Living Street, zone 30, zone 20. È una questione non tanto culturale, ormai è una questione di volontà politica. Se io decido di andare in quella direzione, anche la società è pronta per fare questo salto. In Italia, vabbè, Bolzano chiaramente la fa da padrona, ma ha un'influenza anche mitteleuropea molto più forte, però immaginiamo Ferrara, una città in cui la percentuale di spostamenti in bicicletta è altissima, infatti è una capitale europea anche della bicicletta. Cagliari sta facendo gli investimenti sul ferro, quindi tram, eccetera. È per adesso rimane un'immagine abbastanza macchia di leopardo, non essendoci delle politiche nazionali forti in questo senso, non è ancora così diffusa, però sono molti gli esempi di città che stanno ripensando il modo di vivere appunto dei cittadini e di spostarsi. Ed era Giuseppe Piras, architetto e organizzatore dell'appuntamento in corso a Pavia, ma in generale anche degli stati generali della mobilità nuova. Facciamo una piccola pausa e poi ci ritroviamo. Radio24.it è sempre con te anche in viaggio. Consulta la mappa del traffico aggiornata in tempo reale. Potrai conoscere la viabilità del luogo in cui ti trovi e avere tutte le info su code, cantieri e altre criticità. Clicca su Mappa e scopri il nuovo servizio su radio24.it. Radio 24. La passione si sente anche in viaggio. L'altro pianeta. Ancora buon pomeriggio da Laura Bettini. In questa puntata stiamo parlando degli stati generali della mobilità nuova che sono in corso in questi giorni a Pavia, incontri promossi dal Comune. Nella prima parte di questa trasmissione abbiamo sentito l'architetto Piras inquadrarci la situazione, ci ha detto degli interventi possibili per incentivare i pedoni, le biciclette e i mezzi pubblici, con tutte le positive ricadute che questo potrebbe avere per la circolazione ma anche per la salute dei cittadini, l'inquinamento atmosferico e in generale le tasche di tutti noi per un verso o per un altro. Ora scendiamo più nel dettaglio con Valerio Montieri, progettista dell'area tecnica di FIAB, che è la Federazione Italiana Amici della Bicicletta. Non è sempre necessario separare le corsie per le bici dalla carreggiata delle auto, ci ha detto. Questo può servire dove scorrono i grandi flussi automobilistici, ma nei centri storici basterebbe segnare la pista per terra e abbassare i limiti di velocità. Tra l'altro, la separazione netta ha almeno un grosso svantaggio, dice Montieri. Il punto di intersezione tra il flusso ciclistico e il flusso automobilistico è il tallone d'Achille della separazione. Quindi io devo creare della grande visibilità sia da parte delle automobili che delle biciclette, perché questo incrocio possa avvenire in maniera sicura. Questa è una delle criticità, poi ce ne sono altri di problemi che i ciclisti riscontrano normalmente nel muoversi in città. Quali sono? Mi sembra che il primo sia un dato di educazione in qualche modo e di consuetudine. Non a caso si dice che lo sviluppo della ciclabilità ottiene dei risultati quando i numeri si alzano, cioè la sicurezza è fatta dai numeri. Più ciclisti ci sono per strada e meno incidenti ci possono essere, proprio perché la disattenzione e l'alta velocità porta sicuramente a non vedere le biciclette nella maggior parte dei casi. Dopodiché c'è anche una questione infrastrutturale. Le nostre strade sono fatte male. Sono fatte male come fondi stradali, come tombini, ma veramente come piccole cose anche. Ma se pensate, la fascia di utilizzo della carreggiata, che è quella più vicina al marciapiede, quasi sempre presenta le condizioni stradali peggiori. Esattamente, ci sono tombini, buche, asfalto fatto male, rappezzi. Rifiuti, a volte anche rifiuti. Rifiuti, e poi parliamo di parcheggi fatti male, portiere che si aprono, eccetera. Anche come vengono poi dopo progettati certi snodi, no? Per cui io devo risalire su un marciapiede, devo discendere, c'è lo spigolino che poi è bello, però no? E non è pratico, ti rompe le scatole. Ce n'è per ogni gusto, direi, di difficoltà. E poi ci sono le difficoltà che arrivano invece da altre questioni, come il codice della strada che lei ricordava prima. Ma ci sono delle modifiche che sarebbe necessario apportare, di cui finalmente si sta discutendo, no? Come quella del doppio senso per i ciclisti in un senso unico, perché la norma cosa prevede? La norma prevede che non sia possibile appunto realizzare il doppio senso ciclistico, vuol dire semplicemente nelle strade a senso unico per le automobili io invece posso poter andare nei due sensi in bicicletta. Il nostro codice della strada è un codice della strada nato per le automobili e non per le persone in qualche modo, e quindi non contempla cose di questo tipo, come per esempio non contempla la possibilità di utilizzare le corsie dei bus per andare in bicicletta. In alcuni casi, essendo molto larghe e poco frequentate, potrebbero essere una soluzione, oppure non contempla le case avanzate, che sono diciamo una zona davanti al semaforo per poter fermarsi e farsi vedere dalle automobili ed eventualmente girare sul lato sinistro in sicurezza. Se ci pensate, tutte queste cose che ho elencato sono in fondo dei comportamenti che i ciclisti, che da ciclisti tendenzialmente prendiamo, ma non per volontà di disattendere le regole, ma perché sono proprio quelle piccole scelte che rendono lo spostarsi in bicicletta efficace ed efficiente. Se pensiamo solo al doppio senso ciclistico, l'esempio credo che sia molto chiaro. Se io sono in automobile e vedo tutte le mattine, sono in coda e vedo tutte le mattine il ciclista che può andare nella direzione diretta verso il centro, cosa che io non posso fare perché in automobile devo fare un giro di 500 metri, un chilometro in più, io credo che la prima volta lo guardo con stupore, la seconda lo guardo con invidia e la terza lascio la macchina a casa, prendo la bici anch'io e ci metto molto meno. Sono tutti elementi, a nostro parere, che servono proprio per incentivare l'utilizzo della bicicletta. E si stanno sbloccando? E si stanno sbloccando. C'è un forte movimento anche dal punto di vista parlamentare, un po' guidato dal parlamentare Gandolfi, che era l'assessore di Reggio Emilia, che quindi ha avuto questa esperienza di grandi interventi per la ciclabilità nella sua città, sta portando queste istanze, diciamo, secondo me finalmente le sta portando anche con dati sperimentali che dimostrano, per esempio, che il doppio senso ciclistico non è rischioso, che non c'è un innalzamento dell'incidentalità, anzi si diminuiscono le incidentalità, perché comunque aumenta l'attenzione da parte dell'automobilista e quindi l'incidentalità è o minore o porta minori conseguenze. Come far digerire ai cittadini tutti questi cambiamenti? Come si traduce nella pratica tutta la teoria di cui abbiamo detto finora? È difficile, ma è il compito dell'amministratore. Sentiamo Davide Lazzari, assessore alla mobilità del Comune di Pavia. Penso che la responsabilità di un amministratore non sta nel costruirsi il consenso spiccio di domani, ma soprattutto nell'avere la responsabilità di cambiare in meglio il contesto urbano in cui vive e che amministra, magari pagando anche un po' sotto l'aspetto del consenso, diciamo così, o della, a volte anche del dissenso dei cittadini. Chi amministra deve andare oltre queste cose, perché molto spesso ce lo ripetiamo nei convegni e questa volta lo vogliamo fare. No, in bocca al lupo, perché non sarà facile. Pensando proprio alle difficoltà, alle resistenze che ha incontrato in questo lavoro che è ancora in corso, con i cittadini, con le varie categorie, che cosa si sente di suggerire ad altri che intraprendono questo percorso? Quali sono state le difficoltà principali? Allora, io leggo sempre nei momenti un po' di sconforto, perché ovviamente uno fa questo lavoro e lo fa studiando molto, ma soprattutto anche con grande passione, ma per dare un apporto positivo alla propria città. E quando ovviamente si è sotto attacco da molto spesso anche polemiche strumentali, ci si sente anche un po' soli, insomma. Allora in questo momento di solitudine ho sempre una bella frase che dice che fa molto più rumore un albero che cade piuttosto che una foresta che cresce. Quindi io dico a tutti di non star lì ad ascoltare chi urla di più. Chi sono quelli che gridano di più? Ma quelli che gridano di più solitamente sono i commercianti oppure il residente che è abituato ad avere il parcheggio sotto casa. È ovvio che nei nostri centri urbani, ma soprattutto nei nostri centri storici, il commerciante deve capire che non è che la persona va da lui perché ha il parcheggio a un metro dalla vetrina, ma va da lui perché molto probabilmente nei confronti di un centro commerciale ha l'appetibilità di una bellezza urbana, di una bellezza architettonica in sicurezza. Ma se io sono un pedone che va in un centro storico e devo stare attento al residente, al camion, all'invalido, all'autobus, perché tutti passano su quella stessa strada, molto probabilmente preferisco con mio figlio andare in un centro commerciale. Ma per quello che poi c'è la caratterizzazione del centro storico, perché per rubare i clienti, tra virgolette, al centro commerciale dovrà fare delle botteghe e non più i franchising, e quindi è quello l'evoluzione del centro storico. Città come Torino, si pensa a spostamenti sotto i 2 chilometri da farli solo esclusivamente a piedi o in bicicletta, in città come le nostre lo spostamento entro il chilometro viene fatto in macchina, perché io abito a un chilometro 200 metri da dove devo andare a fare la commissione e banalmente vado in macchina. Noi vogliamo disincentivare tutta questa cosa dicendo tu utilizza il mezzo di trasporto collettivo, no, non solo per una questione di, come dicevamo prima, di economicità, di efficienza e di spazio urbano, ma soprattutto anche per una questione sanitaria di inquinamento. Noi vediamo oggi cosa vuol dire avere delle città inquinate. Questo porta poi a un costo sociale molto alto di persone che ovviamente le patologie legate alle vie respiratorie sono sempre in crescita, insomma, quindi questo è tutto un costo sociale che la collettività oggi paga. Per quel che riguarda il trasporto pubblico, che è l'altra parte, no, l'altra gamba importante, i comuni ce la fanno o non ce la fanno perché è un periodo tale per cui non ce la facciamo? Nonostante i tagli, le amministrazioni hanno a disposizione un bel po' di chilometri. Bisogna capire che deve il trasporto pubblico non essere considerato come, diciamo così, un contrappeso elettorale. Io ho dei contesti dove magari 10 cittadini raccolgono le firme, allora lì per 10 cittadini arriva l'autobus. No. Ora, devo fare prima di tutto degli studi di macrosistema, cioè i cittadini da dove si spostano e verso cosa si spostano. Di conseguenza ripensare a tutto il trasporto pubblico, però il trasporto pubblico poi deve essere veloce, deve essere efficiente, efficace, perché costa, e di conseguenza per essere veloce e avere una velocità commerciale molto alta, cioè quindi viaggiare, deve trovare la strada libera. Non può oggi il mezzo pubblico schivare le macchine, fare le stesse fermate che fa le macchine, gravate dalla sosta per caricare e scaricare la gente. Grazie a tutti voi per averci seguito, grazie ai nostri ospiti che ho strappato i loro incontri per queste interviste. Vi ricordo che c'è ancora oggi pomeriggio per seguire qualche incontro degli stati generali della mobilità nuova. Il tutto si svolge al Collegio Cairoli di Pavia. Ci ritroviamo la prossima settimana alla stessa ora da Laura Bettini. Un buon ascolto.